Mordi, mordi, mordi, mordi, lecchi, lecchi, lecchi, lecchi, succhi, Eldorado gelo succosi. Fammi vedere com'è la bocca. No, troppo piccola. Mordi, mordi, mordi, lecchi, lecchi, succhi, succhi, Eldorado, gelati per bocche super. Gelo succosi. Ehi, quello sì che è la bocca super. Mordi, mordi, mordi, lecchi, lecchi, succhi, succhi, Eldorado, gelati per bocche super. Cantiamo insieme in libertà, lasciando andare la voce dove va. Così per scherzo tra di noi, posso provarci anch'io se vuoi, inizia pure, vai. Sai, la melodia che canta, sarebbe quasi un po' così, potrebbe essere così, aprendo l'anima così, lasciando uscire quello che ognuno ha dentro, ognuno ha in fondo a se stesso. Che per miracolo adesso sembra persino più sincero, nel cantare insieme. Questione di fine. Questione di fine. Solo di fine. Così per scherzo tra di noi, improvvisando un po', ti seguo pure, vai. Resta là. Questione di fine. Questione di fine. Solo di fine. Aprendo l'anima così, lasciando uscire quello che ognuno ha dentro. Questione di fine. Lasciando emergere in noi spontaneamente quel che c'è nascosto in fondo. Questione di fine. Avete sbagliato radio. Ma chi è? Che? Kibbutz. Kibbutz. Kibbutz. Iniziamo così? Stai dicendo che iniziamo così, iniziamo dopo due anni? Dopo due anni ricominciamo così con un pezzo decisamente... Ma come definirlo? Potremmo farlo definire in qualche modo il nostro ospite di oggi, ma aspettiamo a introdurlo e... Abbiamo un ospite, abbiamo che un ospite. Aspetti, no? Introduciamolo, abbiamo un ospite. Ma ci avranno riconosciuti, lo sanno chi siamo? Un po' le voci nel tempo sono cambiate, sì, sicuramente. Forza di fumare. Dopo due anni di beep, dopo due anni di beep, beep, beep, beep. Allora, parliamo innanzitutto con il nostro ospite, vediamo se interagisce con noi. oggi, limitatamente, all'Accademia della Brusca abbiamo... Sapessi chi è, descrivimela, io mi presto. No. Mettiti in posa. Una parrucca bionda. Basta quello. Bene, siamo tornati dopo 2 anni. Abbiamo delle precisazioni da fare dopo 2 anni. Non Tanto. Diremo le parole con la C e con la V. Le posso dire solo una volta per farlo capire, perché potrebbe essere qualsiasi cosa. E allora non diremo la parola COVID e non diremo la parola pensavo culo. Vaccino. E ogni volta che le diremo dobbiamo mettere dei soldi dentro a un barattolo e il rumore sarà questo. Come potete capire non saranno monetine, non sarà ramini e spicciolini, ma saranno ma pezzi da 50. Almeno. Solo pezzi da 50. Perché Radio Wombat è la radio di chi c'ha li pippi. Ecco, e noi ne siamo piene. Bene, ma che bello, bentornate. Bentornati. Come va? Bentornati. Ma che domanda è? Cioè, stiamo a fare la trasmissione. Dopo 2 anni dobbiamo dircelo. Ma io tutto bene, voi? Bene, grazie. Da tanto che non lei, ci si vedeva, tutto a posto, grazie. Voi come state? Bene. Interessante stare nel mezzo e non potervi guardare e fare finta di avere un torcicollo. Benissimo. Mi sento la signora Longari io. E allora iniziamo subito, entriamo subito nel vivo di questa trasmissione radiofonica. Bentornate all'Accademia della Brusca. Chiaramente entriamo timidamente facendo parlare qualcun altro, perché dopo 2 anni era difficile entrare a gamba tesa. E abbiamo il nostro opinionista che ha un argomento nonché uomo di cultura. Cioè, che ha un argomento molto interessante da introdurre. Ma sì, tutto nasce in realtà da un mio lungo viaggio. Nel quale i migliori racconti, certo, e qui io mi trovo appunto in giro per il mondo. E siccome sono un uomo di cultura, io uso visitare i luoghi della cultura, in particolare siccome ho un interesse tardo ottocentesco ormai per la paleontologia, per l'archeologia, per le scienze naturali e queste cose qua, mi ero recato in un museo di scienze naturali. Il nostro Goethe. E a un certo punto, prima di entrare in una stanza, l'altra persona che era con me mi chiede: vorresti venire a vedere la mia collezione di farfalle? No, effettivamente entrati nella stanza vi era una grossa collezione di farfalle, cioè c'erano delle teche con tantissime farfalle dentro. E da lì a me è nato, oltre a questa battuta di spirito che mi ha reso ilare per tutta la giornata, però la mia indole da uomo di cultura, indagatore, ricercatore, così mi ha portato a chiedermi: ma perché si dice viene a vedere la mia collezione di farfalle? Pensa. E da lì è partito un tormento, sostanzialmente, che è durato diverse settimane, in cui io mi sono chiuso in queste biblioteche affollatissime di libri, ho cercato anche sull'internet. Con tanta paura. Ho cercato per cercare di riuscire a risalire all'origine di questa cosa. Che probabilmente... E essenzialmente le domande che mi sono posto erano due. Era primo, perché si dice collezione di farfalle? Ma poi anche la seconda, che era ben più rilevante ma conseguente, non ero sicuro che avrebbe trovato una risposta. Ma questa cosa si dice dappertutto? La vexata question. Esatto, si capisce dappertutto questa cosa della collezione di farfalle? Perché io mi sono proiettato, no? Tipo, me negli Stati Uniti, e se io arrivo in un paese anglofono, negli Stati Uniti, capito? Se io dico tipo, do you want to come and see my butterfly collection? No. Con questo inglese proprio. Oppure, così. Cioè, vengo capito o si aspettano veramente che io abbia una collezione di farfalle? E da lì è partita tutta questa ricerca. Poi nascono troppi equivoci, no? Troppo pericoloso. Ma volevo cercare di capire se era possibile, cioè se era una possibilità. Non è che per forza devo usare... Non sono neanche convinto che questo approccio sia l'ideale. No, effettivamente. Cioè... Il maccheronico non funziona, ma io ho un'idea. Ma in generale la proposta. Intanto che ci siamo, possiamo lanciare anche un sondaggio per chi ci ascolta da casa, se del tipo, sapete perché si dice vieni a vedere la mia collezione di farfalle? O avete un'idea che vi ispira particolarmente? Che non vale cercarlo su Google. Vale cercarlo su Google. Perché cioè, io ho faticato tanto, non è che adesso solo perché arriva lo cerchi qualcuno. Su Google e ti viene spiegato Ah, subito, quindi si allora. Trova su Google. Non alla prima ricerca. È la seconda pagina. Non è vero. Ho faticato tantissimo. Ho dovuto veramente ravanare in alcuni libri scritti dagli amanuensi. Va bene? E comunque, alla fine, io sono riuscito in qualche modo a districarmi da queste cose. Non ho grosse certezze ancora, nel senso che o comunque ho delle ipotesi. Ho delle ipotesi che sono dovute appunto al fatto che la ricerca delle fonti, eccetera, non è stata semplice. Quindi io mi sono fatto una mia idea. Il problema è che io ero partito all'inizio dal problema sbagliato, cioè dall'analisi sbagliata della parola nella frase. Io ero partito da farfalle. E non è quello il problema, perché la parola giusta da cui partire era collezione. Era collezione. Perché è soltanto l'indagine della storia del collezionismo che mi ha condotto a un'ipotesi per me veritiera. In particolare, mi sono sostanzialmente figurato, cioè immaginatevi, devo risalire a perché le persone collezionano le cose. Noi nel nostro mondo lo facciamo in maniera, cioè è normale, no? Ci sono le collezioni di francobolli, eccetera, ma da dove nasce questa cosa? In realtà sono dovuto risalire alle Wunderkammern. Per avere una risposta, certo. Comunque soddisfatto. Banalità, no, cosa sono le Wunderkammern? Sono le camere delle meraviglie o anche i gabinetti delle meraviglie, perché rimandano in qualche modo a un luogo chiuso, piccolino, dove ci stava che cosa. In realtà qui, allora, diciamo, la parte, quella del mega hype delle Wunderkammern, in realtà è intorno al 1500 e ce n'erano tante. Però dobbiamo risalire per capire bene il senso di questa cosa. Perché secondo me, quantomeno al Medioevo. Quantomeno al Medioevo. Quantomeno. E dobbiamo indagare le collezioni di meraviglia. Okay. Cioè di quegli oggetti che erano atti a destare la meraviglia e lo stupore in chi le vedeva. Ora, dove stavano queste cose nel Medioevo? E qui si inserisce anche un forte elemento di critica sociale. E stavano essenzialmente in quelli che erano gli avamposti della cristianità. Perché? Io mi sono spiegato questa cosa così, ma penso di aver abbastanza azzeccato, perché nel momento in cui io suscito una meraviglia, in qualche modo io ti metto in una predisposizione d'animo, atta in qualche modo a smuovere dei sentimenti in te, che poi nel momento in cui sono smossi, in qualche modo facilitano la ricerca di senso. Cioè io mi lascio, no, meravigliato, stupito di queste cose che la mia razionalità non riesce in qualche modo a spiegare, di fronte alla quale la mia razionalità si, non saprei come dire, ammaina le vele, no? Cioè si butta in terra e dire oh lo stupore così, e poi arriva il cristianesimo a dire ma sai perché c'è questo stupore? Che t'ho dato io, perché le collezioni di meraviglia dove stavano? No? C'erano gli amanuensi con queste cose lì, c'erano ma anche banalmente gli ex voto, spesso erano le collezioni di ex voto tendevano a essere questa meraviglia, no? Più era grande il favore che avevo ricevuto da Dio e più ti donavo qualcosa di magnifico, di così. Anche se vogliamo le frattaglie dei santi, no? Cioè le ossa, quelle cose lì, la scottiglia dai, lo schifo che avanza santi, dai corpi, okay, dei santi, queste cose qua, sì. Erano tutte collezioni di meraviglia, no? E l'idea, secondo me, alla base era proprio questa: io ti stupisco e poi capitalizzo il tuo stupore spiegandoti il mio senso, perché tu sei in qualche modo predisposto ad accogliere senso. Io te lo spiego il senso, e così la cristianità va avanti per un po'. Però a un certo punto c'è questo fenomeno della secolarizzazione. E quindi le Wunderkammern in realtà, già nel 1500 così, iniziavano a essere più delle cose legate un po' al pagano, un po' al profano. E quindi si espandevano, no? Uno collezionava magari i minerali, le cose strane, i pezzi antichi, e poi li faceva vedere, erano una roba da nobili chiaramente, non una roba da poveracci, no? Tipo i medici facevano essenzialmente questo, no? Che poi dalla collezione dei medici, da alcune Wunderkammern, infatti nasce il nostro impianto museale. Però mentre il museo si collocava già fin dall'inizio come un'esposizione pubblica in qualche modo, la Wunderkammern aveva un aspetto che secondo me era più legato invece al suo istinto precedente, che era una collezione quasi intima. Cioè la Wunderkammern in questo senso qua assomigliava un po', se vogliamo, al gabinetto dell'alchimista. Okay. Cioè una roba dove tu non solo costruisci questa meraviglia, ma in qualche modo te ne fai anche, cioè la utilizzi per la costruzione del sé. Capisci? In questo doppio significato, comunque diventa una cosa intima, diventa una cosa più così. Poi quando con l'illuminismo abbiamo la fine di questa secolarizzazione sostanzialmente, no? E l'approccio diventa più quello positivista scientifico, di questo cosa rimane? Rimangono questi gabinetti pieni di cose. Infatti cosa facevano? Classificavano tutto. Sì. E questo, se vogliamo, però è un approccio che esisteva già nel Medioevo con tutto l'approccio nominalista, no? Dare il nome alle cose per possederle. In questo caso io le colleziono in modo da poterle catalogare e in questo modo posseggo la realtà. Chiaramente questo è per l'approccio scientifico, ma torniamo alla Wunderkammen che dovrebbe spiegare la cosa. Quindi nel momento in cui io ti propongo di venire a vedere una mia collezione, in qualche modo ti sto proponendo di venire a conoscere una parte intima di me, che io leggo però a questa cosa della meraviglia. Quindi nello stesso tempo io ti propongo qualcosa di intimo, ma ti vorrei anche meravigliare, per metterti in quella predisposizione d'animo che poi mi permette di darti il senso. Non ce la faccio. Il senso. Scusa. Allora Gino, scusate, noi ti dedichiamo subito un frammento. Va bene. Perfetto. Ha visto la povera contessa, oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza. Che bei versi, sono suoi? Sì, una mia cosettina giovanile. Anche poeta. E il significato? Cogliamo i fiori di questa primavera prima che sopraggiunga l'inverno. E quindi... Dica, e dica. Posso avere l'onore di averla a colazione da Gigi il Troione, ho già prenotato. Ma veramente è un po' tardi. Ah, non lo so, avrei un impegno e... È già occupata, eh. Va bene, accetto. Accetta! Eccetera, eccetera, eccetera. Poi la signorina Silvani dà degli stro. Meraviglia, termina lì. Ginox, te lo sei meritato. Ah, non ho detto che era un metodo che funzionava garantito. Non... comunque vedi cosa succede a prendertela con me. Semplicemente perché ho battuto un lato della cuffia sul parasputi del microfono. Dai, per così comunque poco. Vuol dire, c'ho un'influenza in questo luogo, sappi. Mi stai meravigliando, smettila. Abbiamo toccato la tua collezione di cuffie. Guai a chi tu. Vabbè, il primo collezione. Passo, già vi ho meravigliato. Certo. Quindi comunque, una spiegazione molto... Per questo ora... era il primo pezzo. Ecco. Ora chiarissima. Viene l'altra domanda a cui, avendo dato una risposta in qualche modo a perché si dice, allora... aveva estremamente senso domandarsi, ma vale in tutto il mondo? Perché comunque questa è una cosa che effettivamente accade quantomeno in Occidente dappertutto. E quindi mi sono domandato se questa cosa della colazione di farfalle, e a questo punto sì, dovevo spostarmi in qualche modo dall'attenzione su collezione all'oggetto della collezione, e dovevo iniziare a trovare una giustificazione a questa cosa. Questo è stato una parte un pochino più facile forse della ricerca, nel senso che effettivamente la risposta che mi sono dato quasi subito è che no, non vale dappertutto nella stessa maniera. Mi spiego. Noi in Italia diciamo collezione di farfalle. Ora, ho cercato anche di spiegarmi perché le farfalle, perché in alcuni casi sono riuscito a ricostruire perché si fa riferimento a quella particolare collezione. Ma nel caso delle farfalle in Italia in realtà non ho trovato una spiegazione. Allora mi sono dato una spiegazione un po' pecoreccia, che però poteva essere in linea con il carattere dell'italiano medio. Cioè, perché la farfalla? Perché sei un povero di spirito, essenzialmente. Nel senso che la farfalla effettivamente, se la vediamo, vedere la mia collezione di farfalle era probabilmente un invito che in qualche modo ti predisponeva. Però questo lo dobbiamo vedere solo nella maniera eteronormata, che però può anche darsi che sia quella che ha originato il detto. Temo di sì. Capito? E quindi poteva essere un invito sia a farti intuire, nel caso non l'avessi capito, il senso, no? Che poi aveva questa cosa, e in qualche modo anche un invito a dire fai parte di questa mia collezione, magari come il pezzo più bello, capito? Però è un invito a entrare in questa mia collezione, e questo io me lo sono giustificato così. Okay. E sul carattere da poveri di spirito degli italiani. Ho scoperto però ad esempio che in Francia questa cosa non è così, cioè in Francia si dice vieni a vedere la mia collezione di stampe giapponesi, e qui mi si è aperto un altro ambito di ricerca più semplice effettivamente, perché già essendo appassionato come Fosco Maraini, no? Cioè di Giappone, anch'io ho girato tanto con lui, me lo ricordo, esatto, capito? C'ero anch'io quando faceva le foto alle pescatrici di perle a Okinawa, cioè me lo ricordo bene. E quindi lì era un po', è stato un po' più semplice, ho detto ma perché? Ho detto perché a metà dell'Ottocento tutti gli impressionisti sostanzialmente erano appassionati di cultura giapponese. In particolare esisteva proprio questo giapponismo, cioè questa, insomma, questa tendenza a guardare al Giappone. E perché questa cosa però è calata poi in qualche modo anche in questo ambito, secondo me, riferito più all'intimità anche fisica tra le persone. E qui bisogna indagare che cosa ricercavano gli impressionisti, cioè cosa li aveva impressionati. Gli impressionisti. Allora, del Giappone, varie cose, però secondo me una delle cose interessanti era ad esempio il fatto che nelle stampe giapponesi, per la prima volta, credo, in Occidente in maniera così palese, c'era un riferimento al corpo in attività erotiche, estremamente esplicito, ma in qualche modo anche estremamente artistico. Cioè, che ne so, i più grandi artisti degli ukiyo-e, tipo Utamaro, facevano anche gli shunga. Ma gli shunga non sono visti come i giornaletti porno, capito, degli anni 70, erano... che comunque magari c'è anche del rispetto sui generi di Glenn, non lo so. Però sono visti come un prodotto di serie B di nicchia. Lì invece erano qualcosa per un pubblico molto colto, erano estremamente curati, e i più grossi artisti facevano questo. Cioè, Utamaro è uno, però ad esempio se pigliamo Okuzai, la stampa con la donna sdraiata con il polipo che sostanzialmente ne aggredisce la vagina, la farfalla, esatto, la farfalla, e in realtà è una specie di grosso capolavoro sostanzialmente. E io mi sono immaginato che una parte dell'interesse che loro avevano era in questo appunto interesse per il corpo, che in qualche modo in tutta la nostra cultura occidentale è sempre stato un po' combattuto, no? Perché di nuovo per l'influenza forte del cristianesimo, in realtà non è che noi non disegnavamo i nudi, però in qualche modo dovevano essere, siccome i committenti per la maggior parte era la Chiesa, in qualche modo il nostro nudo era sempre legato a una qualche tematica religiosa. Cioè non è che tipo nelle, che ne so, le estasi delle sante hanno chiaramente un'espressione estremamente orgasmica e sensuale, però non nasceva per rappresentare quella cosa, era un modo in cui l'artista probabilmente riusciva a rappresentare quella cosa, ma senza dire che la stava rappresentando. Cioè quando nel periodo glam sostanzialmente del manierismo hanno iniziato a fare i corpi voluttuosi, che c'erano gli angioletti con i capelli colorati, no? Che sembra proprio David Bowie come approccio, no? Perché c'erano questi angioletti, che dici, ma perché gli ha fatto i capelli rossi, blu e verdi? Cioè c'avevano proprio un che di questo tipo. E in realtà è arrivata subito dopo la Controriforma, abito a dire Zac, basta! E lì c'era stato il tentativo di rappresentare il corpo voluttuoso, sebbene inserito in quelle tradizioni, però ad esempio lo facevano rappresentando delle cose classiche. No, e quindi c'era questo sgamotto, però non c'era mai stata questa rappresentazione. Con gli impressionisti in realtà inizia ad esserci, perché, che ne so, Toulouse-Lautrec, che era un appassionato di stampe giapponesi come tutti loro, rappresentava i corpi delle prostitute, ed erano molto sensuali, e tra l'altro non li rappresentava in atti particolari, magari li rappresentava che si lavavano... semplicemente nudi. O... No? Sì. E quindi tendenzialmente io penso che sia questo il motivo per cui poi si dice viene a vedere la collezione di stampe giapponesi, perché in qualche modo rimandavano anche una certa tensione erotica, e nello stesso tempo erano veramente fonte di collezionismo, perché tutti loro, cioè se tu vai a vedere la casa di Monet è piena di stampe giapponesi, c'era dello spessore, tipo il fratello di Van Gogh no, perché era un poveraccio alla fine, però il fratello di Van Gogh era un collezionista di stampe giapponesi, che era quello con i soldi, no, Teo? Bravo, grazie. E un po', cioè, se tu vai in Francia essenzialmente a vedere le case degli impressionisti o tutte queste cose qua, ti rendi conto che erano dei grossi collezionisti. C'era anche un giornalino che era dedicato soltanto a questa cosa qua, che usciva all'epoca, non mi ricordo come si intitolava. E quindi mi sono figurato che effettivamente l'origine per i francesi era facile da tracciare. E secondo me era molto più bella però dell'espressione italiana. E non lo dico perché io sono coperto di tatuaggi giapponesi e quindi avrei baccaglio facile, capito? In Francia. Vuoi vedere la mia collezione, punto. Esatto. E vabbè. E poi allora ho cercato anche di capirne un'altra, almeno. Una ho rinunciato, perché tipo i tedeschi dicono: vieni a vedere la mia collezione di francobolli. E io mi sono legato, se noi siamo pecorecci nel nostro approccio, però loro sono burocrati. Esatto. Cioè, ne sono degli opachi burocrati e così. E quindi niente. E invece mi aveva interessato un casino quella del giro anglofono. Perché dicono: vieni a vedere la collezione di acque forti. Ora, le acque forti, già è difficile sapere se cosa sono, no? Sì. Nel senso che, comunque, questo metodo di incisione, però non è che è automatico che andavano così forte come le stampe giapponesi. E quindi mi sono chiesto perché. E questo è stato l'unico episodio in cui sono riuscito a ricostruire da dove è nato. In realtà è un fenomeno abbastanza recente, perché risale a una data, o addirittura un anno, che è il 1937. Perché nel 1937 dovete sapere che c'era un pianista russo, ecco, me lo sono cancellato. Vabbè, c'era un pianista russo, avevo gli appunti su questo, ma andrò a memoria. C'era un pianista russo naturalizzato statunitense, che andava fortissimo negli anni 30, ma tipo fortissimo, che stava proprio, era stato anche rappresentato nei fumetti di Betty Boop, che suonava al piano. Ed era Ruby no, ma bensì Rubinov. Era Rubinov, David Rubinov, esatto. Ebbene, lui nel 1937 sostanzialmente gli è stata intentata una causa per rottura di promessa di matrimonio, in cui c'era una persona che aveva detto che lui l'aveva invitata a casa sua a vedere la propria collezione di stampe di acque forti. Etchings, l'aveva concupita, l'aveva messa incinta e poi si era rifiutato di sposarla. E quindi c'era stata questa causa. La causa poi è stata risolta, non so come, perché Wikipedia non me l'ha detto, però cercherò di approfondire appena nel mio prossimo viaggio negli Stati Uniti. Sì, certamente mi recherò e cercherò di capire. Però è rimasto il detto, cioè è rimasto questo, che probabilmente è stato un fatto che era dato anche sui giornali, ed è rimasto questo detto: vieni a vedere la mia collezione di acque forti. Tutto molto connesso. Che disvelava effettivamente l'intento preciso della cosa, in qualche modo. Quindi loro fanno, gli inglesi, un parallelismo con quella che è una cosa tipica della loro cultura, che è il tabloid, il chiacchericcio facile. Poi possiamo interpretarla anche dall'acqua così, dall'acqua forte piace. Al tabloid, proprio al giornalettismo. E qui si è conclusa sostanzialmente questa mia peregrinazione in giro per il mondo, nel tentativo di indagare questa che potrebbe essere una boutade, ma in realtà dietro c'aveva tutto un universo di cose da scoprire. Sarei curiosa di sapere cosa succede nell'Oriente più estremo. Allora, non sono riuscito a trovare notizie. Dobbiamo scoprire di più. E non lo so, perché era difficile, perché questa cosa della collezione è proprio tipica della nostra cultura occidentale, questa cosa della catalogazione, della collezionare, del mettere le etichette, fa proprio parte di quella cultura che poi ha prodotto il Novecento sostanzialmente. La nostra cultura occidentale. E quindi io non so se abbiamo un equivalente in Oriente di queste cose, però potrebbe essere oggetto di un mio prossimo viaggio. Di un prossimo viaggio, certo. Ma sempre con Fosco Maraini oppure vai da solo questa volta? È morto, te lo devo dire. Appunto. È mancato. Da un po'. Però preferirei non parlarne, perché è ancora una ferita aperta. Ferita su questa ferita. Allora, aperta, mentre Gino si lecca le ferite, un pezzo musicale per... E io raccolgo le testimonianze che mi stanno arrivando. Perfetto. Dai nostri ascoltatori. Allora, intanto le devo filtrare, perché non so se si possono far ci ascoltare. Ci dedichiamo alla musica. We'll be right back. pezzo era ovviamente sensuale. Anche un po' farfallesco, direi. Un po' così. Un po' forse semplicistico sul tema. Ecco. Tema che è stato ampiamente affrontato dal nostro caro ospite Ginox, e che ci arrivano anche un po' di feedback, se così vogliamo dire, da casa dai nostri ascoltatori, che ci stanno dicendo che la trasmissione è molto interessante. Quindi sei contento? Che sono dei poveri di spirito. Che sono dei poveri, cioè, sono... di spirito, no? Cioè, quello... noi siamo bravissimi, però obiettivamente... Allora, mi è stato detto di non mandare quel commento che abbiamo ricevuto. Abbiamo ricevuto forse per la prima volta nella storia di Radio Wombat un commento audio sulla puntata, ma non possiamo mandarlo perché, abbiamo detto, è un po', come dire, decostruttivista. È troppo decostruttivista, sì. Quindi rovinerebbe il lavoro e anche tutto l'allure della ricerca di Ginox. Quindi, però facciamo un saluto a chi ce l'ha mandato, e un saluto anche a Reset, che non fa più per ora 8 Hz, ma ci sta ascoltando, ed è proprio lui ad aver detto che questa puntata è molto interessante. Chissà cosa sta imparando. Lo scopriremo. Lo scopriremo, forse speriamo di no. Forse speriamo di no. Allora, tematica del giorno. Nenia, dove sei? Facciamo un cambio di postazione velocissimo. Ah, allora vi intrattengo io. Mentre cambiano la postazione, io parlerò dicendo delle cose completamente a caso. Sei alta. Ah, per fortuna l'avete già fatto, non ce n'è bisogno. Già fatto tutto. Ma se vuoi raccontarci ancora qualcos'altro delle tue ricerche, potresti tranquillamente spaziare. Non so se hai altre notizie sulle farfalle, sulle collezioni che danno... No, ho ancora delle tematiche aperte, nel senso che non sono riuscito ancora a indagare... E tutta la parte relativa all'Oriente, cioè non so se esiste un equivalente di questo tipo nel mondo orientale, perché per esempio i francesi hanno preso dal Giappone, ma chi lo sa se il Giappone ha preso dai francesi, ma dai, non lo so. Però tutte queste coreani. Cose qua appunto saranno frutto di indagine per i miei prossimi viaggi in giro per il mondo, dove cercherò. E poi volevo anche indagare se questa cosa aveva un risvolto simile anche nell'Africa, sostanzialmente, che è la culla della cultura, e quindi a sapere anche lì, per vedere se c'era proprio un che di ancestrale. Cioè, chissà se gli uomini, capito, del Paleolitico dicevano: vieni a vedere la mia collezione di pitture rupestri. Esattamente, stavo pensando proprio a quello. E quindi, non lo so, se... Adesso i precristiani no, perché comunque è sempre roba nostra occidentale, ma chissà se loro dicevano magari: vieni a vedere la mia collezione di catacombe. Collezione di catacombe è difficile. Cioè, è vero, ce n'erano tante, però non è che uno anch'io. Le collezionava proprio. Comunque non lo so, insomma, prossimamente cercherò dei finanziamenti verso qualche grosso mecenate, presumo, non lo so, Rockefeller o qualcuno interessato a coprire queste mie imprese, e inizierò a girare per il mondo alla ricerca appunto di notizie relative a questo, conferme anche delle mie teorie, magari, non lo so, nella lontana Anatolia. Che quella è veramente la culla della civiltà, quindi chissà in Anatolia cosa offrivano, quale collezione offrivano. Bene, bene, bene. Quindi tutto questo si può riassumere con un termine, forse. Non so, vediamo se anche il nostro ospite è d'accordo, così per fare ancora più decostruzione. La pragmatica. E già un po' mi spaventa la parola. Sì. Spaventa, ebbene, è spaventato, e noi siamo felici di questo. È tutto lì, è tutto dentro alla pragmatica. Che cos'è la pragmatica? Signori. Siamo ripartite con la linguistica, è finito il cazzeggio. No, no, ma devo dire che l'argomento introdotto da Gino, secondo me, Gino è molto pragmatico, perché... la pragmatica si occupa del rapporto tra i segni e i loro utenti, ovvero l'uso dei segni di chi li fa e del contesto in cui questi segni nascono e vengono, come dire, vengono segnati, perché è così che si dice. Quello che accade durante la conversazione fra due soggetti o esatto, più. Esatto. Allora, nasce negli anni 30 del Novecento, quindi anche il nostro ospite Ginox potrà essere felice di sapere questa cosa nelle sue ricerche. Insomma, abbiamo una data, gli anni 30 del Novecento, ed è un completamento della sintassi, ovvero la sintassi è lo studio della relazione che intercorre tra i segni, quindi qui diamo un livello superiore, e anche della semantica, che invece è lo studio delle relazioni fra il segno e il designato. La definizione che abbiamo sotto gli occhi dice questo oggi. E quindi, insomma, è un elemento in più. E la nostra collezione di farfalle ha sicuramente un segno, un simbolo, e sicuramente almeno due utenti. Poi, se vogliamo citare Renato Zero, ne potrebbe avere anche di più. Sicuramente due utenti all'interno di questo, diciamo, veicolo comunicativo. Cioè, comunque suona tutto estremamente meno romantico adesso. Noi sì, siamo un po' più per la collezione. Non puntavamo al romanticismo, te lo assicuro. Figurati, io e lei. No, ma si presta a questa. Cioè, effettivamente non è una cosa romantica dire vieni a vedere la mia collezione di farfalle. Se vuoi possiamo, per rendere tutto più romantico, possiamo tenere in sottofondo il pezzo con cui abbiamo aperto. No, stiamo che si capisce quello che diciamo, che ecco, okay, sottofondo ecco. È troppo rischioso. Sottofondo è rischioso, ma noi l'abbiamo sempre messo, chissà per quale motivo. E infatti non si capisce mai un cazzo. Ecco, è arrivato Ginox. Quindi, vediamo un po' come nasce, anzi quali sono i campi principali della pragmatica. Lo studio dell'azione linguistica, del senso implicito delle cose, sicuramente. Non è che sia una materia che parla apertamente di chiarezza, è tutto molto sull'implicito. La collezione di farfalle, l'esempio che ci è stato portato oggi, è effettivamente implicito nei significati ed estremamente esplicito invece poi nella, diciamo, è al contempo implicito ed esplicito, diciamo così. Queste ricerche di pragmatica poi si sono diramate in molte direzioni anche grazie ai contatti fra la linguistica, la sociologia che è fondamentale, la psicologia e l'antropologia, appunto. Chissà, come dicevano, vieni a vedere la mia collezione di farfalle in Anatolia, quindi più antropologico di questo non c'è sta niente. Devo partire. Devi partire, devi partire assolutamente. Poi, vabbè, negli ultimi anni, dagli anni 60 in poi, c'è stato anche il grande sviluppo del settore della pragmatica cognitiva, che si occupa dei modi in cui la mente elabora e denuncia i testi, ed enuncia, non li denuncia. E quindi un livello ancora superiore, molto diverso però rispetto a quello che la pragmatica, come è iniziata, diciamo, insegnava e studiava, ecco. Allora, pragmatica. Nasce nel 1938 ed è una definizione data da Charles Morris, questo filosofo americano. Quindi noi parliamo sempre di linguistica, ma vediamo anche come la linguistica sia strettamente connessa anche ad altre discipline, tra cui appunto quelle filosofiche. E qual è la differenza tra la sintassi, che è quel, diciamo, insieme di segni, parole che impariamo e riusciamo a governare quando siamo bambini, e la semantica invece che sviluppiamo quando siamo un pochettino più grandi? La differenza è nel prendere in considerazione l'utente di un sistema di segni, quindi è, diciamo, soggetto centrico, si può dire? Mi sembra, si capisce. Come definizione, la nostra pragmatica è soggetto centrica, in particolar modo considera il soggetto che usa un linguaggio per esprimersi e comunicare, quindi tutti quanti probabilmente sappiamo, come dire, padroneggiare un minimo la pragmatica. E di questa persona, quindi di questo utente di un sistema di segni, contano la collocazione spazio-temporale sociale, ma anche le intenzioni, eccola qua la questione, le intenzioni del vedere la collezione di farfalle, il perché. Ma anche le credenze, tutti gli stati mentali, l'agire, il recepire, l'agire altrui, quindi c'è anche una dimensione soggettiva, ma anche appunto rivolta verso il nostro interlocutore. Nenia, perché mi accarezzi il braccio? Perché volevo nulla togliere alla parte romantica di tutto quello che ci è stato raccontato, però sottolineare un aspetto, che questi inviti velati che sottendono a questi modi di approcciarsi all'invito alle collezioni di farfalle si chiamano implicature conversazionali. Quindi sono degli esempi di implicite informazioni che vengono fatte intendere senza che il parlante le abbia dette esplicitamente, quindi c'è questa particolare capacità di essere cancellabili se la relazione non è quella che ci si aspettava. Quindi se io ti propongo vieni a vedere la mia collezione di farfalle e tu non sei d'accordo, io posso far finta che questa cosa voleva realmente dire vieni a vedere la mia collezione di farfalle, quindi questa cosa è cancellabile da parte del parlante. Nell'altro modo invece il parlante può negare di aver voluto intendere tutto oppure affermarlo nel caso che il co-partecipante alla conversazione abbia intuito, e a quel punto si sta a vedere, accetta oppure no. E c'è questo doppio gioco ambiguo della comunicazione, questo scambio della comunicazione. E questo che poi fa parte del discorso della pragmatica. Nelle implicature conversazionali sottendono tutti quegli scambi, voluti o no, con dei significati anche velati che stanno alla copartecipazione dei dialoganti e alla capacità di capirli o meno, di annullarli nel caso ci sia un fraintendimento o di approfittare della situazione. E in tal caso, se le persone si comprendono in questo scambio, c'è quella che poi nella pragmatica viene detta cooperazione nell'atto del comunicare. Del comunicare. Era quindi giusto riallacciarsi a questo. Continua pure, cara. No, è giustissimo, perché appunto noi stavamo parlando di situazioni, no? Di spazio e come possiamo dire, sì, di spazi in cui queste frasi vengono enunciate, quindi è fondamentale. Sì, proprio le intenzioni del parlante, esatto, e della situazione in cui socialmente si utilizza quel tipo di linguaggio. Esattamente. E quindi si può parlare di una sorta di contesto situazionale, quindi come dicevamo le coordinate spazio-temporali, oppure la proprietà sociale interazionale anche di noi stessi, quindi noi utenti, noi che enunciamo e i riceventi, quindi coloro che sono le vittime purtroppo della nostra pragmatica, come Ginox in questo momento. O siamo noi le sue siamo vittime? Da, da, da, da. Non lo sapevo. Quindi, ogni produzione di senso sappiamo che avviene, come dicevamo, in un contesto situazionale, quindi in determinate coordinate spazio-temporali, da parte di un certo individuo dotato di certe proprietà sociali e interazionali, e rivolgendosi ovviamente a certi destinatari nel corso di una certa attività o nell'ambito di una certa scena sociale. Contemporaneamente a questo, però, ogni uso di segni, scritti e non solo, si contestualizza nel contesto cognitivo del soggetto. Ciò che questa persona sa o crede del mondo, in particolar modo del contesto, della situazione insomma che si sta proponendo, oppure ciò che desidera fare o intende fare, ciò che dà per scontato, ciò che ritiene di dover o poter condividere con la persona che lo sta ascoltando, le persone che lo stanno ascoltando. Quindi questo contesto, che è situazionale, cognitivo, ed è la combinazione di entrambi, poi si riflette sul significato, sulla appropriatezza e la validità di quello che noi andiamo a denunciare, quindi dei nostri atti linguistici. È un qualche cosa che caratterizza la nostra capacità, la nostra caratteristica appunto di essere animali parlanti, come diceva Chomsky, quindi questo tema che abbiamo tanto dibattuto. È un'espressione che viene appunto influenzata da un sacco di situazioni quotidiane e reali in cui noi ci troviamo immersi, in qualsiasi settore, da quello familiare a quello dell'amicizia, a quello più formale, a quello proprio da baracca, giusto? Soprattutto baracca. Ci si addisce di più. E a proposito di baracca, mancano una decina di minuti alla fine della trasmissione. Allora, parte un pezzo musicale e poi rubrichetta. La rubrichetta! Forse. We'll be right back. One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Madonna's, and a face that would make it. Champion of dance, his moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit, as a man he's complete. My creme de la creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Halston, Gucci, Fiorucci. Sfumiamo sul pezzo perché, no, l'ho spento del tutto proprio, perché ora vi diremo cosa succede. L'Accademia della Brusca è tornata e abbiamo rivoluzionato un po' anche l'assetto della trasmissione e delle varie rubriche. Eh sì, perché questa volta basta, oltre al gettone del soldo delle parole non dette, che comunque sarà sempre attivo a tutte le puntate, ve lo e dico. E forse . Anche a tutte le trasmissioni, stiamo molto attenti. Sì. Ci saranno la rubrica della parola da adottare, della parola del giorno. Però prima volevo fare dei ringraziamenti a WokuOps, perché ci ha ceduto un pochino del suo tempo e quindi sforiamo un po' noi per concessione loro. Grazie. Li ringrazio e soprattutto mi complimento per la puntata. L'ultima puntata. No, Ginox, mi stai guardando malissimo, non l'hai sentita? No. Free Britney, non l'hai sentita? Vabbè, la sentirò. C'è anche un documentario. Io vado in differita almeno di due mesi sulle nostre trasmissioni. Okay. È geniale che sia stata fatta una puntata su di lei su Radio Womat, e ne sono veramente fiera. Infatti penso che il pezzo di chiusura forse... forse non c'è nemmeno tempo per il pezzo di chiusura. No. Fermi, no, parola niente giorno, per niente. Facciamo ciao, veloci, parola da adottare. Allora, la parola da adottare di oggi è tornagusto. E si tratta di un sostantivo. Il tornagusto è uno stuzzichino, un cibo o bevanda che stuzzica l'appetito. Una trappola! Esatto! La trappola del nostro la amico trappola. Roma. Una trappola, ciao Roma! E quindi noi ci siamo prese questo accollo, come si suol dire, e ogni settimana proponiamo una parola parolina. Da continuare a dire in continuazione fino a che non rientri nel vocabolario delle parole vive e non in quelle che stanno per morire. Quindi tornagusto, tra poco andremo a prenderci un tornagusto, vero? Assolutamente, sì, accompagnato io da due. Una bevanda alcolica. Due tornagusti, per me un tornagusto è una birra. Per me un tornagusto è un vino rosso. Io torno a gusto e chinotto. Okay, bene. Sottolineo che torna a gusto in determinate situazioni può voler dire anche la stessa bevanda che stuzzica l'appetito. Quindi in realtà noi potremmo dire: vado a farmi un tornagusto stasera. Ma perché no, non andiamo a uccidere definitivamente quella parola orrenda, parolaccia, che aperitivo, che fa veramente Milano. Sì, no, cioè, Milano, che schifo. La odiamo. Esatto. E quindi potremmo iniziare a dire: andiamo a fare un tornagusto. Stupite anche voi i vostri amici questa sera, quando ora infatti è l'orario perfetto, le 19.04 di questo freddissimo martedì di dicembre, stupite anche voi i vostri amici dicendo: chi viene a farsi un tornagusto? Bene, non vedo l'ora. E invece la parola del giorno di oggi, che non sarà intervallata da un jingle speciale perché non c'è tempo, è patatrac. Patatrac... chiaramente un'onomatopea, significa rumore di qualcosa che crolla o si sfascia, disastro, crollo rovinoso e fattaccio. Disastro. È una parola non solo onomatopeica, ma addirittura cinematografica. Ma bellissimo. Sappiatelo. E tra i suoi sinonimi ce ne sono diversi, insomma c'è sfascello, incidente, rovina, crack e tutto quello che ha a che fare con rumore, rottura e devasto. Quindi bene, questa però non è una parola in fase di morte e devastazione, e non sta scomparendo, però ci era piaciuta, quindi volevamo sottolinearla. Ma ricordatevi, torna gusto, quello è importante, dobbiamo adottare questa parola altrimenti muore. Noi no, l'adotteremo subito. Io stavo facendo... Già mi avevi messo un sacco di tristezza. Ma no, perché tu... Perché tu noi la usi, faremo vivere, tu per la Dio. Usi e noi la faremo vivere, perché la puoi usare anche tu che non bevi, improvvisando una chiusura senza perdite di tempo, sì. Perché non vogliamo sovrapporci ai nostri amici che ci hanno già ceduto abbastanza tempo, li ringraziamo ancora. E ascoltate Radio Wombat e la prossima volta ci faremo trovare molto più preparate, vi diremo anche tutti i contatti, tutte le cose che in questi due anni abbiamo un po' perso abitudine di fare. Intanto, quindi grazie per la pazienza, dateci il benvenuto e bentornate, e dalla prossima volta saremo grintosissime come sempre. E buon tornagusto a tutti quanti. Grazie, grazie, grazie, grazie Ginox per la preziosissima panoramica che ci hai fatto sul collezionismo e sulle farfalle. Ah, ma per me è stato un onore, anche per prima che un piacere, credo, sì, condividere, si dice così. Condividere sì, dotte disquisizioni con persone del vostro livello. Orsù, bene, bene, benissimo. Allora un bacio a tutti, ciao ciao. Ciao. Ciao.